succede? È la stampa, Belletta, la stampa. La rassegna stampa di Radio 24, a cura di Bruno Perini. E tu non ci puoi far niente, niente. Un'altra Waterloo, così il riformista ironizza sulla sconfitta di Walter Veltroni. In realtà io vi ho letto Waterloo, ma è Walterloo. Questo si gioca sulle parole. Il riformista: il PD perde la presidenza della regione e sprofonda al 20%, mentre il candidato dell'Italia dei Valori fa flop e prende meno voti della coalizione, ma Di Pietro triplica i consensi ed è contento così. Astensionismo record. Questo dagli studi di Radio 24. Un saluto da Bruno Perini, in regia con noi Carmelo Lauricella. E vi dicevo, sì, il riformista ci propone un'analisi molto severa di quello che è accaduto in Abruzzo, con il tracollo effettivamente dei democratici. Ed è Stefano Cappellini che scrive: così si suicida un partito. Peggio di così a Walter Veltroni e al Partito Democratico non poteva andare. La sconfitta del centrosinistra in Abruzzo era messa in conto, non fosse altro per le disgrazie giudiziarie che hanno travolto la giunta del Turco. Ma il modo in cui è arrivata racconta di un disastro politico e le sue conseguenze non si fermeranno all'Aquila. Complice un astensionismo di massa che ha evidentemente penalizzato entrambi gli schieramenti. I numeri delle urne raccontano che alla fine della partita per la presidenza della regione si poteva giocare ancora, magari a patto che il Partito Democratico non si accodasse a un candidato capace di raccogliere diversi punti percentuali in meno delle liste che lo hanno sostenuto. Il dipietrista Carlo Costantini perde infatti netto dal PDL-ino Gianni Chiodi, nonostante un quasi testa a testa tra le due coalizioni. Inutile girarci attorno, è stata clamorosamente toppata la scelta del candidato. Questo scrive il riformista. Il riformista poi invece affida, e lo vedremo meglio sul Sole 24 Ore, ma comunque affida a Mauro Bottarelli l'analisi del pasticcio Madoff, sì, il ciclone Madoff, quello che sta, il nuovo mega crack che sta influenzando il sistema bancario mondiale. La cifra è confermata, una truffa da 50 miliardi di dollari, architettata dal finanziere Bernard Madoff, l'ex capo del Nasdaq, che ieri ha costretto molte banche a rendere note perdite ingenti. Giganti come Nomura, HSBC, Royal Bank of Scotland, BBVA, Santander, Natixis e le italiane Unicredit e Banco Popolare hanno dovuto fare i conti con le esposizioni verso la Bernard Madoff Investment Securities, fallita dopo l'arresto del fondatore. Le piazze finanziarie europee hanno chiuso in rosso. Questo, ecco, viene dal riformista. Ma se vogliamo andare a vedere le analisi, diciamo, della sconfitta clamorosa del Partito Democratico in Abruzzo, dobbiamo andare, vale la pena andare a vedere il quotidiano, che più di altri ha appoggiato, da sempre ha appoggiato, il Partito Democratico e il progetto di Walter Veltroni, ed è il quotidiano La Repubblica. Il titolo è inequivocabile: Abruzzo al PDL, crolla il PD. Vince Chiodi, astensionismo record, Pescara arrestato il sindaco. Ecco, questa è l'altra notizia che avete già sentito dai GR, ma Edmondo Berselli scrive a questo proposito: nessuno a sinistra si faceva illusioni sul risultato delle elezioni regionali in Abruzzo, ma di fronte ai numeri che si profilano via via che affluiscono i dati, cresce la sensazione che il voto abruzzese non rappresenti un esito soltanto locale e nemmeno solo il risultato fisiologico dello scandalo nella sanità che ha coinvolto il presidente Ottaviano Del Turco e ha abbattuto il governo regionale di centrosinistra. Il primo e plateale dato da mettere in rilievo, infatti, è la caduta della partecipazione al 53%, quasi 30 punti al di sotto delle ultime consultazioni politiche e 15 rispetto alle precedenti elezioni regionali, come dire appunto il titolo se si spegne la fiducia. Scrive ancora Edmondo Berselli: il fatto è che il voto in Abruzzo mette allo scoperto le numerose incertezze e tutti i possibili punti di crisi del Partito Democratico. In queste elezioni regionali, infatti, si era varata un'alleanza simile all'Unione, ossia estesasi nei partiti dell'ex sinistra, arcobaleno. Una geometria variabile necessaria al piano regionale e consentita dalla separazione consensuale praticata prima delle elezioni di aprile. Della scelta più o meno solitaria di Veltroni. Dice ancora maggior ragione se l'alleato più scomodo, cioè l'Italia dei Valori di Antonio Di Pietro, dopo aver ottenuto la guida della coalizione con Carlo Costantini, ha raddoppiato i propri voti rispetto alle elezioni di aprile e quasi sestuplicato i consensi rispetto alle regionali del 2005. Si profila quindi l'esasperazione della partnership rivale tra Di Pietro e il PD, al punto che a partire dalla direzione dei Democratici il 19 dicembre potrebbe porsi il dilemma di un'alleanza squilibrata in cui l'Italia dei Valori attacca a 360 gradi con la sua durezza giustizialista e il PD prende tutte le botte, anche quelle destinate più generalmente alla politica, alle illegalità, ai corrotti. Ecco, questo il quotidiano La Repubblica. Voglio ricordarvi che il quotidiano La Repubblica oggi dedica addirittura tutta la parte di Repubblica R2, Repubblica 2, quella culturale, a che cosa? Ovviamente alla morte del presidente del gruppo, presidente onorario, ma anche ex azionista importante, fondatore di Repubblica, si chiama Eugenio Scalfari. Addio a Carlo Caracciolo, il principe dell'editoria. Questo leggiamo in prima pagina sulla Repubblica, quindi qui ci sono gli articoli che ricostruiscono più ampiamente la storia di Carlo Caracciolo. Scrive Eugenio Scalfari, fondatore di Repubblica: il nostro è un mestiere crudele e io lo so per diretta esperienza. Oggi tocca a me di scrivere il nostro addio a Carlo Caracciolo, il mio lamento su una persona alla quale mi legano 56 anni di vita comune, vita professionale e vita privata, successi e insuccessi, amicizie e inimicizie, convinzioni politiche, esperienze e interessi. Un mestiere crudele che mi obbliga a scrivere mentre Carlo è ancora vivo e riverso senza più conoscenza sul letto d'ospedale. Era malato da molto tempo e aveva attraversato le avversità della malattia con una forza come raramente accade di vedere, quasi indifferente a quanto accadeva nel suo corpo. 4 o 5 volte, dopo aver superato momenti di crisi che avrebbero potuto essergli fatali, me ne raccontava gli aspetti che gli sembravano comici e ci ridevamo insieme come ragazzi. Ecco, questo è Eugenio Scalfari, fondatore di Repubblica, che scrive della morte dell'amico Carlo Caracciolo. E il PDL si prende anche l'Abruzzo. Con questo titolo esultante, il quotidiano Il Giornale apre la prima pagina e Walter, leader dei Tafazzi, Salvatore Tramontano, è ancora più duro di quanto già siano stati altri editorialisti. Se lo conosci lo eviti. Ecco, Salvatore Tramontano, come altri osservatori editorialisti, politologi, imputano una parte fondamentale della sconfitta, vedremo anche sul Corriere della Sera, ad Antonio Di Pietro. Ma Veltroni, pur sapendo bene chi sia Di Pietro, cosa rappresenti, che fine abbiano fatto i suoi alleati, quale sia il suo obiettivo, continua a restargli avvinchiato come una vittima al proprio carnefice, scrive Salvatore Tramontano sul Giornale. Ora il risultato d'Abruzzo rappresenta una lezione in salsa di pietrista per il PD. La batosta è stata terrificante, come dimostra la matematica. Il PD passa dal 35 al 20%, mentre Di Pietro dal 3% arriva quasi al 15%. Quindi che qualcosa non vada in un rapporto che segua questa dinamica, non serve un raffinato politologo per capirlo. Ma se questa è la sintesi algebrica, il problema è un altro, più grave, ed è tutto politico. Il Veltroni di Weekend non può più, non può guidare il partito che aveva teorizzato, non può rompere con Di Pietro, non può liberarsi di D'Alema e delle correnti che soffiano il PD, non può scegliere una collocazione europea, non può avere un'idea che non sia subito commissariata. Così assistiamo chiamano un singolare paradosso. Il Partito Democratico dichiara di aver rotto l'alleanza con l'Italia dei Valori, ma nella regione simbolo della questione morale, dopo essersi stato travolto dallo stesso problema, è alleato. Quindi, insomma, questo è l'analisi che viene fatta dal quotidiano Il Giornale. Il Giornale poi invece dedica a Segre un'analisi del caso Madoff. Ebrei sotto shock, noi rovinati dal nostro finanziere. Poco importa sapere se la frode realizzata da Bernard Madoff sia di 50 o di 500 miliardi di dollari. Ciò che appare certo è che si tratta della maggior frode mai realizzata a danno di migliaia di persone, di fondi di investimento nella storia della finanza americana. Le sue conseguenze negative appaiono enormi, a molteplici livelli, primo fra tutti a livelli della credibilità di questo simbolo di correttezza finanziaria e di onestà personale ebraica che, applicando sfrontatamente il metodo Ponzi, un sistema di truffa inventato negli anni venti del secolo scorso dall'immigrante italiano Ponzi, dimostrato quanto sia labile la memoria dei finanzieri, di cui già due secoli fa Voltaire aveva dato questa lapidaria definizione: finanziere, un ladro. Ecco tutto. Bernard Madoff, 70 anni, ex presidente della Nasdaq, ex tesoriere della Yeshiva University di New York, presidente della Business School di questa università, che è considerata la più famosa istituzione accademica religiosa ebraica d'America, era considerato con la sua Bernard L. Madoff Investment Securities non solo un genio della finanza, ma il prototipo della onestà e della generosità della finanza, soprattutto religiosa, ebraica, nel mondo. Ecco, questo è un aspetto interessante. Interessante che pone Segre, devo dire la verità, mi era sfuggito di questa caratteristica particolare di Bernard Madoff, appunto considerato da, come dice Segre sul Giornale, non un finanziere qualunque, ma un finanziere che curava i grandi e complessi e giganteschi interessi ebraici nel mondo, a livello di perdite di cui non si conosce ancora l'entità. Le vittime che dichiarano di essere state colpite al 100% includono fondi investimento tra i più noti in borsa: Fairfield Century and Sigma, Kinggate Global and Eurofound, Equità Plus, Thema International Fund, Raphael Partners, eccetera eccetera. A livello filantropico, il furto ha già azzerato istituzioni benefiche come la Chase Family Foundation, che donava annualmente milioni di dollari alla società di assistenza ai poveri di Israele e in Europa dell'Est, oppure la Gift of Life Foundation, specializzata negli aiuti al trapianto del midollo spinale. Insomma, una davvera tragedia questa, il caso, il terremoto Madoff, così scrive il Giornale. Vi dicevo che, tornando al caso del crollo del Partito Democratico, il Massimo Franco, spallate e macerie, che tante cose chi ha visto la TV ieri sera Porta a Porta l'ha visto anche, come dire, in un battibecco con Antonio Di Pietro direttamente, anche Massimo Franco propone un'analisi che dice, insomma, che il vero caso, il vero problema di Walter Veltroni è proprio Antonio Di Pietro. Il fatto che Antonio Di Pietro gioisca perché il suo partito ha quasi sestuplicato i voti ufficializza il cannibalismo in atto nel centro-sinistra e almeno nelle sue intenzioni l'inizio di una lunga spallata che dovrebbe avere come traguardo, un riequilibrio col PD alle europee di primavera. Nelle elezioni regionali in Abruzzo la scommessa non era tanto su chi avrebbe vinto fra i due schieramenti. Il successo del centro-destra era previsto anche per lo scandalo che a luglio aveva portato all'arresto del governatore Ottaviano Del Turco del PD. L'incognita riguardava i contraccolpi nel campo dei perdenti, e i contraccolpi, come dice Massimo Franco, si sono visti molto chiaramente. Il sogno sempre meno nascosto di Pietro, scrive Massimo Franco, è quello di trasformarsi in una sorta di Umberto Bossi del centro-sinistra, il capo di una Lega Nazionale pronta a succhiare voti alleati. ma non sarebbe giusto additare l'ex PM di Mani Pulite come la causa dei problemi del PD. Semmai ne è il sintomo, sottolinea ed esaspera l'identità indefinita della creatura veltroniana e ripropone la domanda sui veri motivi che hanno indotto il PD a sceglierlo come alleato. Sono più comprensibili le ragioni per le quali Berlusconi lo ama come avversario. L'anti-berlusconismo di Di Pietro infiamma i cuori di una parte dell'opposizione e in parallelo contribuisce a farla perdere. Ecco, questa è la diagnosi che viene proposta da Massimo Franco sul quotidiano Il Corriere della Sera. Ma due cose volevo segnalarvi sul Corriere. Intanto Gian Antonio Stella che dice: è lo Stato tartassa il centro che cura i bimbi leucemici. Che differenza c'è tra una pelliccia di pantera, una Ferrari 612 scaglietti e una clinica per curare i bambini colpiti dalla leucemia? Nessuna, per il fisco dello Stato italiano, il quale alla Città della Speranza di Padova, che sta per regalargli il più importante centro europeo di ricerca del settore costruito tutto con finanziamenti dei privati, chiede anche di pagare il 20% di IVA, una tassa che mai come in questo caso appare indecente. Questo scrive. E ancora sui controlli, adesso la nuova legge, Beppe Severnini parla di annunci ipocriti. Siamo i gran maestri della teoria, la pratica è giudicata un'attività volgare. Nessun paese in Europa ha regole minuziose e severe come le nostre, nessuno è tanto svogliato e menefreghista quando si tratta di applicarle. Vale per il fisco, vale per gli appalti, vale per la velocità sulle autostrade. E voi sapete che appunto niente alcol in auto, i limiti si abbassano, ormai sarà come, diciamo così, bere un bicchiere di vino a tavola, diventerà un problema, perché se poi si esce e si viene fermati c'è il rischio di incorrere nelle nuove soglie molto basse, almeno così vengono annunciate. Ma dicevo che Severnini sul Corriere dice: è ipocrita, perché senza controlli non c'è norma che tenga. Se è vero ed è vero che l'automobilista italiano ha una probabilità ogni 74 anni di essere fermato, è costretto a soffiare nell'etilometro, che senso ha abbassare i limiti del tasso alcolico? L'impressione che la politica, pigra e pavida per anni di fronte alle richieste di lobbisti dell'alcol, ristoratori discocchettari, ora voglia mostrare di esserci, di indignarsi, di reagire. Lo faccia, ma non in questo modo ipocrita, cioè dire il problema centrale sono i controlli. Questa è la tesi di Beppe Severnini, controlli che non ci sono. Per la guida ubriachi, leggo: non si potrà più bere alcol se si vorrà guidare, basterà un tasso alcolico dello 0,2%, ora è 0,5%. Ci risiamo, davanti a un'emergenza l'Italia non aumenta i controlli, inasprisce le sanzioni, l'apparenza è salva e tutto continua come prima. Questo sul Corriere della Sera, Beppe Severnini, che insomma forse qualche ragione ce l'ha. Il Corriere poi lancia in prima pagina la rivista araba che parla di sesso. Una poetessa libanese lancia il periodico Corpo. C'è grande attesa per il numero di Jihazad, Corpo. Sulla copertina della rivista trimestrale libanese, vietata ai minori, spicca un corpo di donna avvolto in un doppio rosso, in un drappo rosso. La J disegnata con una manetta aperta si riferisce alla necessità di spazzare i tabù. Spiega la direttrice, la poetessa Jumana Haddad, 38 anni, sesso orale e omosessualità tra i temi degli articoli del primo numero. Questo viene lanciato in prima pagina dal Corriere della Sera. Ora, ci sono alcuni giornali come L'Unità e Il Manifesto che, come dire, non danno così spazio al crollo del Partito Democratico come gli altri quotidiani. E in particolare Il Manifesto, invece, con un titolo, devo dire, piuttosto spiritoso, come suo solito, titola Scarpe Diem invece che Carpe Diem. Baghdad scende in piazza per chiedere la liberazione di Muntazer al-Zaidi, il giornalista che scagliando le sue scarpe in faccia a Bush ha ricordato al mondo i crimini della guerra contro l'Iraq. Ecco, c'è questo Scarpe Diem, quindi è il titolo centrale del manifesto. C'è anche una vignetta di Vauro Bushos, e c'è insomma un gioco di parole tra il nome di Bush e le scarpe in inglese. È illuminante il gesto di Baghdad, il lancio da parte del giornalista Muntaz al-Zaidi delle sue scarpe contro Bush in piena conferenza stampa con il premier iracheno al-Maliki. Due scarpate che danno un nuovo ruolo al giornalismo e che pure, se precise quanto a traiettoria e forza impressa, sono state purtroppo schivate dal patetico interessato. Questo scrive Tommaso Di Francesco sul quotidiano il Manifesto. Anche l'Unità, come dire, diciamo così, insomma, forse esageratamente minimizza, nel senso che non apre la prima pagina sulla sconfitta del Partito Democratico, ma sulle scarpe, la guerra delle scarpe, Iraq tra rivolta e festa, manifestazioni in tutto il paese dopo la contestazione al presidente George Bush, mentre pagina 4 e 5 sulla sconfitta in Abruzzo, tanti astenuti, Abruzzo al PD e PDL, scusate, ovviamente Pescara arrestato il sindaco PD. Ecco, però diciamo non ci sono, almeno non vengono offerte riflessioni di critica. L'ombra Madoff, questa è l'apertura del Sole 24 Ore. I bancari pesano sulle borse, Santander è esposto per 2,3 miliardi, lo avete già sentito in molte trasmissioni di Radio 24, già ieri, diciamo da quando è scoppiato il caso Madoff è ancora nei GR, ma leggiamo: una dozzina di ispettori della SEC, l'autorità USA di borsa, è al lavoro per ricostruire la mappa mondiale dei clienti caduti nella frode di almeno 50 miliardi di dollari del broker Bernie Madoff. Il caso ha pesato ieri sulle borse, in particolare a Wall Street, dove l'indice Standard & Poor's 500 ha perso l'1,3% e il Nasdaq, di cui Madoff è stato anche presidente, il 2,1%. In Italia Unicredit meno 4,2% a Piazza Affari ha comunicato un'esposizione propria di circa 75 milioni di euro, ma per la divisione di Asset Management Pioneer Investment si profila un'esposizione indiretta di centinaia di milioni, minore il coinvolgimento di Banca Popolare, ieri meno 3,8%. L'inglese HSBC è esposta per 1 miliardo di dollari, la spagnola Santander per 2,3 miliardi di euro, 3,1 miliardi di dollari. E Alessandro Graziani ci dà un commento, e il commento lo focalizza sul credito e sulle banche italiane. Le banche italiane fanno i conti con un altro mega crack globale, proprio alla vigilia dell'esecutivo ABI, che tirerà le fila dell'ipotesi di intervento pubblico nel sistema creditizio. In Europa i vari governi sono già intervenuti quasi ovunque, in Italia no, perché le banche fanno resistenza, ma in un quadro che evidenzia sempre maggiori situazioni di rischio, il fronte dei banchieri orgogliosi comincia a scricchiolare. Ecco, questa è la notizia che ci viene data da Alessandro Graziani sul Sole 24 Ore. Il crack da 50 miliardi di dollari dei fondi hedge di Mr. Madoff è solo il più recente tormento dei banchieri italiani. Purtroppo è convinzione comune, non sarà l'ultimo, e non è detto, scrive Graziani, che ogni volta, come è successo anche nel caso della Lehman Brothers, i danni per il sistema bancario siano tutto sommato limitati. I banchieri ricordano ancora come un incubo le notti di incertezza che hanno preceduto i salvataggi in extremis della statunitense Morgan Stanley e della belga Dexia, i cui fallimenti avrebbero determinato un effetto contagio che poteva essere devastante anche in Italia. Tuttavia, prima o poi, se il contesto di mercato non cambia, e per ora purtroppo niente lascia pensare a mutamenti in senso positivo, esiste il rischio che anche le banche italiane tornino a finire nel mirino della speculazione internazionale. È per questo che Graziani dice: le difficili prove che le banche e il sistema paese nel suo complesso si troveranno ad affrontare nei prossimi mesi mesi richiederebbero forse un maggiore senso di responsabilità da parte di tutti. Questa è la richiesta che noi troviamo, e poi sempre sul Sole 24 Ore abbiamo una serie di servizi. Antonella Olivieri, che è stata inviata a New York dal Sole 24 Ore, la SEC sulle orme della truffa, e poi ancora per gli Edge è l'ora delle regole, caccia aperta fino all'ultimo istante, con un'intensa attività di marketing a pochi giorni dell'esplosione dello scandalo della mega truffa da 50 miliardi di dollari. I seguaci di Bernard Madoff continuavano a battere a tappeto il territorio di caccia anche sul suolo italiano, e questo poveri coloro che sono caduti nella trappola. Se cambiamo argomento e andiamo a Libero fa una scelta diversa, non apre sulla crisi del Partito Democratico, titolo sì in prima pagina, di Pietro sommerge Veltroni, ma è il PDL a vincere. Dicevo che il quotidiano Libero invece torna sul caso Brunetta sotto tiro, la sua idea europea di elevare di 5 anni l'età pensionabile delle donne, equiparandola a quella degli uomini, ha scatenato la rabbia dei sindacati e di mezzo mondo femminile. Ha sollevato un vespaio la proposta di Renato Brunetta di equiparare a 65 anni l'età della pensione di vecchiaia anche per le donne, come è per gli uomini, con esponenti tanto della maggioranza che dell'opposizione a favore, politici di entrambi gli schieramenti risolutamente contrari. Brunetta è sotto tiro, gli contestano che non è sua competenza sollevare il tema previdenziale, anche se in questo caso l'ha fatto a seguito di una sentenza della Corte Europea che si riferiva direttamente al settore pubblico che sotto la competenza del ministro Brunetta ricade. E qui dice Oscar Giannino, insomma, che sembra voler dare ragione sui conti a Brunetta. Dice: per capire meglio vi proponiamo qui i conti che avevamo fatto mesi fa su Libero Mercato, per non avere un'idea concreta degli effetti concreti che discenderebbero dal provvedimento. Ora però su questo provvedimento nessuno vuole, ovviamente, come abbiamo visto per il momento, arrivare, perché creerebbe troppo scompenso politico, e poi, come è stato già osservato a Radio 24, forse il governo Berlusconi si ricorda quello che accadde quando si parlò dell'articolo 18, dell'abolizione dell'articolo 18 in termini politici. Ora il foglio invece ci spiega perché la Confindustria di Emma ora dà fiducia al governo del Cavaliere. Sorpresa, l'Italia non è fritta. Dal rapporto del Centro Studi Confindustria che sarà presentato oggi arriva un inatteso messaggio di speranza per l'economia. Malgrado il crollo dei consumi e la cassa integrazione dilagante, gli imprenditori non sono del tutto pessimisti. Ci sono piccoli segni di una futura ripresa. A indurla sarà il combinato disposto tra il ridimensionamento del prezzo delle materie prime, il calo dell'inflazione e lo sgonfiarsi della supervalutazione dell'euro. Tuttavia, perché la situazione da drammatica possa tramutarsi in sostenibile, occorrono misure espansive per l'economia. La Confindustria sintetizza il suo messaggio al governo con tre parole d'ordine: infrastrutture, ammortizzatori sociali, fiducia. La sfiducia è la tesi oggi è la peggior nemica. Innanzitutto gli industriali chiedono un piano corposo di ammortizzatori sociali estesi anche a piccole imprese e lavoratori atipici. Per finanziarli si attinga al fondo di coesione sociale europeo. In seconda battuta occorre una revisione delle pensioni. Ecco che ritorna il tema pensioni, ma insomma la tesi di fondo del foglio è che ci sono motivi fondati per cui la Confindustria di Emma Marcegaglia ora dà fiducia al governo del Cavaliere. Cioè, qualche giorno fa si diceva che forse c'erano momenti di attrito, ma insomma invece questa tesi rimette in circolo la questione. Ora rapidamente solo i titoli: il Messaggero, il PDL conquista l'Abruzzo, e poi la questione morale, dice Mario Aiello, ha svuotato le urne. Questa è una delle ragioni per cui c'è stato un così clamoroso caso di assenteismo in Abruzzo. E con questa segnalazione dal Messaggero io vi saluto, vi ringrazio e vi do appuntamento a domattina.